Capitolo 20. L'addio. Per la nostra scuola prendemmo una casa in affitto, un luogo in voga per i bagni, con la prospettiva di avere due o tre allieve tanto per cominciare. Ritornai a Horton Lodge circa alla metà di luglio, lasciando mia madre a concludere l'affitto della casa, a cercare altre scolare, a vendere la mobilia della nostra vecchia abitazione e acquistarne della nuova. Spesso proviamo compassione per i poveri, perché non hanno il tempo di piangere i loro parenti defunti e perché il bisogno li costringe a superare le loro durissime afflizioni. Ma il miglior rimedio per vincere il dolore, il più sicuro antidoto della disperazione, non è l'attività. È probabilmente una povera consolazione, è probabilmente ben duro essere oppressi dai casi della vita quando non si ha la possibilità di goderne le gioie, essere stimolati a lavorare quando il cuore è lì per rompersi. E lo spirito tormentato implora solo pace per piangere in silenzio. Ma il lavoro non è preferibile alla pace a cui agoniamo? Non sono le piccole noie e i piccoli affanni meno pungenti del continuo arrovellio sulla grande angoscia che ci opprime? E poi non esistono pene e affanni senza speranza, sia pure la speranza di compiere il nostro malinconico dovere, formare qualche progetto inutile o sfuggire a qualche altra angustia. In ogni modo, ero contenta che mia madre potesse mettere in esercizio ogni lato del suo temperamento attivo. Ai nostri buoni vicini rincresceva che ella, una volta in alto per ricchezza e situazione sociale, fosse nella calamità ridotta a tali estremi. Ma io ero convinta che avrebbe sofferto tre volte di più che se fosse stata lasciata nell'abbondanza, con la libertà di rimanere in quella casa. La scena della sua felicità precedente e della presente afflizione senza la dura necessità che le impedisse di continuare a pensare e piangere la sua perdita. Non mi dilungherò nei sentimenti con cui lasciai la vecchia casa. Il giardino, così noto, la chiesa del piccolo villaggio che mi era allora doppiamente caro perché mio padre, che per 30 anni aveva impartito conoscenza e pregato fra le sue pareti, riposava ora sotto le sue pietre, e le vecchie colline spoglie, amene anche nella loro desolazione, intersecate da valli rallegrate da boschi verdi e acque gorgoglianti. La casa dove ero nata, scena di tutti i miei primi ricordi, il luogo in cui si erano accentrate le tenere afflizioni della mia vita, poiché li dovevo lasciare per non ritornarci mai più. Era vero che ritornavo a Horton Lodge, dove fra molti mali mi rimaneva una fonte di piacere, ma fu un piacere misto a troppa amarezza. E la mia permanenza, ahimè, sarebbe stata di 6 settimane. E poi i giorni di quel tempo prezioso fuggivano uno per uno rapidamente senza che lo vedessi. Fuorché in chiesa, per 15 giorni dopo il mio ritorno, non vidi il signor Weston. Quel tempo mi parve un'eternità e siccome ero spesso fuori con quella camminatrice della mia allieva, naturalmente sorgevano speranze e seguivano delusioni e così dicevo al mio cuore, ecco una prova convincente, se tu volessi solo avere il giudizio di capirla e la prudenza di riconoscerla, che egli non si cura di te. Se pensasse a te solo metà di quello che tu pensi a lui, già molte volte avrebbe cercato il modo di incontrarti. Devi saperlo. Se studi i tuoi sentimenti, quindi smettila con queste sciocchezze. Non hai nessuna ragione per sperare. Allontana dalla tua mente queste idee dannose e questi desideri folli e rivolgiti ai tuoi doveri e alla vita triste e vuota che ti attende. Potevi anche capire che questa felicità non era per te. Ma finalmente lo vidi. Me lo vidi comparire vicino all'improvviso mentre attraversavo un campo di ritorno da una visita fatta a Nancy Brown, approfittando che Matilde Murray era andata a passeggio sulla sua cavalla impareggiabile. Aveva dovuto sentire della grave perdita che avevo subito. Non mi rivolse nessuna espressione di condoglianze, ma le prime parole che pronunciò furono: «Come sta sua madre?» Questa non era una domanda naturale, perché non gli avevo mai detto che avessi una madre. Per saperlo doveva avere sentito la cosa da altre, e oltretutto c'erano una schietta bontà e anche una simpatia sincera e profonda nel tono e nel senso della domanda. Lo ringraziai con la dovuta cortesia e gli dissi che stava come meglio non potevo sperare. Che cosa farà? Chiese allora. Molti avrebbero trovato la domanda impertinente e avrebbero dato una risposta evasiva, ma a me non passò per la testa e gli risposi in poche parole, ma chiaramente, i progetti e le speranze di mia madre. Allora lei lascerà presto questo posto, disse. Sì, fra un mese. Tacque un minuto come sovrappensiero. Quando parlò di nuovo, speravo che sarebbe stato per esprimere il suo rincrescimento per la mia partenza, ma fu solo per dire. Beh, immagino che sarà contenta di andar via. Sì, per alcune ragioni, risposi. Solo per alcune ragioni? Mi chiedo che cosa le può far rimpiangere questo posto. Mi sentii seccata di questa frase perché mi metteva in imbarazzo. Avevo un'unica ragione per rimpiangere il posto e questo era un profondo segreto che non era affar suo cercare di conoscere. Perché, dissi, perché crede io odi questo posto? Me l'ha detto lei stessa, rispose con prontezza, o almeno che non poteva vivere contenta senza una persona amica e che qui lei non aveva nessuno e non aveva la possibilità di trovare nessuno. E poi so che deve aver avuto questo posto in antipatia. Ma se ricordo bene, avevo intenzione di dire che non potevo vivere contenta senza avere una persona amica nel mondo. Non ero così irragionevole da pretenderne sempre una vicino a me. Credo che potrei essere felice in una casa piena di nemici se. Ma no. Andavo troppo oltre, mi arrestai e in fretta aggiunsi. E poi. E poi. Si può lasciare senza rincrescimento un posto dove abbiamo vissuto per 2 o 3 anni? Forse le rincresce di separarsi dalla signorina Murray, la sola allieva e compagna che le rimane? Convengo che mi rincrescerà un poco, non senza dispiacere, mi separai dalla sorella. Lo comprendo. Ebbene, la signorina Matilde è altrettanto buona, migliore in un certo senso. E quale? È onesta. E l'altra no? Non posso dirla disonesta, ma devo confessare che è un poco scaltra. Scaltra? Notai che era leggera e vana. E ora. Aggiunse dopo una pausa. Posso ben credere che fosse anche scaltra, ma al punto da assumere l'apparenza di una persona di somma semplicità e candore. Sì, continuò meditando. Queste informazioni mi spiegano alcune piccole cose che mi rendevano perplesso. Dopo questo passò a parlare di argomenti più generali. Non mi lasciò finché non avemmo quasi raggiunto il cancello del parco. Si era certamente allontanato un po' dal suo cammino per accompagnarmi così lontano. Perché poi tornò indietro e scomparve per Moss Lane, la cui imboccatura avevamo oltrepassato qualche tempo prima. Certamente non rimpiansi questa circostanza. Se sentivo una pena in cuore era per il fatto che egli se n'era andato, non aveva fatto dell'altra strada al mio fianco e perché quella conversazione breve e deliziosa era finita. Non aveva pronunciata una parola di amore o fatto trasparire un indizio di tenerezza o di affetto, eppure mi ero sentita estremamente felice. Ah, essere vicina a lui, sentirlo parlare come mi aveva parlato, capire che mi giudicava degna di ascoltarlo e capace di comprendere e apprezzare la sua parola, era abbastanza per me. Sì, Edoardo Weston, davvero potevo essere felice in una casa piena di nemici, avendo una persona che mi amasse profondamente e fedelmente. E se quella persona fosse stato lui, anche se fossimo stati lontani l'uno dall'altra, ci fossimo scritti raramente, incontrati anche più raramente, fossi stata oppressa dal lavoro, pene e tormenti, anche così era per me un sogno troppo grande di felicità. Eppure, chi può dire, dicevo dentro di me mentre attraversavo il parco, chi può dire che cosa potrebbe portare con sé quest'ultimo mese? Ho quasi 23 anni, ho provato molte sofferenze e poche gioie. La mia vita deve essere tutta grigia? Possibile che Dio non oda le mie preghiere, non disperda queste ombre fosche e non mi conceda qualche raggio di sole? Egli mi negherà quelle gioie che sono date così generosamente ad altri che nemmeno le chiedono e neppure ne sono grati quando le ricevono. Non posso ancora sperare e avere fiducia? E sperai, ed ebbi fiducia per un po', ma ahimè, il tempo volava, le settimane fuggivano l'una dietro l'altra, e ad eccezione di una volta che lo vidi da lontano e di due incontri di sfuggita, andando a passeggio con la signorina Matilde, non lo vidi mai, fuorché naturalmente in chiesa. E così arrivò l'ultima domenica e l'ultimo servizio. Fui spesso sul punto di sciogliermi in lacrime durante il sermone, l'ultimo che udivo da lui, il migliore che avrei mai sentito, certamente. Questo finì, i presenti si allontanarono e anch'io con loro. L'avevo visto e avevo udito la sua voce, forse per l'ultima volta. Nel camposanto Matilde era in confabulazione con le due signorine Green. Avevano molte domande da farle su sua sorella. Desideravo solo che finissero di parlare e che potessimo ritornare a Horton Lodge. Sentivo il bisogno di ritirarmi nella mia camera o in qualche angolo appartato della campagna dove avrei potuto abbandonarmi ai miei sentimenti, piangendo sulla separazione e sulle mie false speranze e le mie vane illusioni. Ancora questa volta, poi addio sogni vani, e la mia mente non avrebbe avuto per il futuro che la realtà aspra e triste. Ma stavo prendendo queste risoluzioni quando una voce bassa accanto a me disse: «Immagino che partirà questa settimana, signorina Gray». «Oh, sì, signore. Avevo provato un gran colpo e se fossi stata soggetta a mancamenti certamente sarei svenuta, ma grazie alla provvidenza non svenni». «Ebbene», disse il signor Weston, «desidero salutarla. Non è probabile che la veda di nuovo prima che lei parta». «Addio, signor Weston», dissi. Oh, come mi sforzai di dirlo con calma. Gli diedi la mano e gli la tenne per alcuni secondi nella sua. «È probabile che ci si veda di nuovo», disse. «Questo le farebbe piacere o no?» «Oh, sì, sarei molto contenta di rivederla». Non potei dire meno di così. Egli mi premette teneramente la mano e partì. Oh, mi sentii felice di nuovo, benché più che mai disposta a scoppiare in lacrime. Se fossi stata costretta a parlare in quel momento, uno scoppio di singhiozzi avrebbe inevitabilmente tradito la mia emozione. E comunque non potei trattenermi dal piangere. Cominciai a camminare con la signorina Murray, voltando la faccia da una parte e trascurando di prestare attenzione ad alcune sue osservazioni, finché ella non sbottò chiedendo se ero sorda o rimbecillita. Ma poi, ritornata in me stessa, come uno che si risveglia da una profonda astrazione, levai improvvisamente gli occhi e le chiesi che cosa avesse detto. Capitolo 21. La scuola. Lasciai Horton Lodge e andai a raggiungere mia madre nella nostra nuova abitazione. La trovai in buona salute, rassegnata e perfino gaia di spirito, benché grave e un po' abbattuta nell'insieme del suo comportamento. Avevamo soltanto 3 allieve interne e una mezza dozzina di esterne, tanto per incominciare. Ma col lavoro e la diligenza speravamo di aumentare di molto il numero sia delle une che delle altre. Mi dedicai con la dovuta energia ai doveri di questa nuova vita. La chiamo nuova perché c'era in realtà una differenza notevole fra lavorare con mia madre in una scuola nostra e lavorare stipendiata fra estranei, disprezzata e calpestata da vecchi e giovani. E per le prime settimane non fui affatto infelice. È probabile che ci si incontri di nuovo. O questo le farebbe piacere o no? Queste parole mi riecheggiavano nell'orecchio e mi riempivano il cuore. Erano il mio conforto e sostegno segreto. Lo rivedrò, egli verrà o mi scriverà. Nessuna promessa, infatti, era troppo radiosa o troppo stravagante perché la speranza non me la suggerisse all'orecchio. Mi stavo dicendo, ridendo, io non credo alla metà di quel che mi dice. E mi davo arie di riderne, ma ero molto più credula di quello che io stessa supponessi, perché avevo un tuffo al cuore quando sentivo battere alla porta di casa e la ragazza che aveva aperto veniva a dire a mia madre che un signore desiderava vederla. E perché restavo di cattivo umore tutto il resto della giornata quando venivo a sapere che era un maestro di musica che veniva a offrire i suoi servigi per la scuola? E che cosa mi faceva arrestare per un momento il respiro quando mia madre, ricevute dal postino un paio di lettere, mi diceva: «Ecco, Agnes, questa è per te», e me ne porgeva una. E che cosa mi faceva arrossire se vedevo che l'indirizzo era scritto da una calligrafia maschile? E perché? Perché mai quel senso di desolazione e abbattimento che mi sovrastava quando strappavo la busta e trovavo che era solo una lettera di Maria alla quale suo marito per una qualche ragione aveva scritto l'indirizzo? Ero dunque giunta al punto di essere delusa nel ricevere una lettera della mia unica sorella. Perché questa lettera non era scritta da un uomo che a paragone di lei era un estraneo? Maria, cara, ed ella l'aveva scritta con tanto affetto, pensando che ne sarei stata contenta. Oh, non meritavo di leggerla. E credo che nell'indignazione contro me stessa l'avrei messa da parte finché non mi fossi sentita più degna e meritevole dell'onore e del privilegio di conoscere il suo contenuto. Ma c'era lì mia madre a guardarmi perché desiderava avere notizie, così gliela leggevo, gliela consegnavo e poi andavo nella sala studio e attendevo le allieve. Ma tra copiature e somme, mentre correggevo degli errori gravi e rimproveravo delle omissioni, mi richiamavo al dovere con la più grande severità. Che pazza sei, diceva il mio cervello al mio cuore, ossia la mia parte più dura alla mia parte più tenera. Come puoi sognare che ti scriverà? Su che cosa appoggi tale speranza? O che egli voglia vederti o prendersi delle brighe per te o anche semplicemente pensarti? Che cosa te lo fa pensare? E allora la speranza mi poneva davanti l'ultimo incontro e ripeteva le parole che avevo così fedelmente conservato nella mia memoria. Che cosa c'è di speciale in questo? Chi mai attaccò le sue speranze a un ramo così fragile? Che cosa c'era in queste sue parole che un qualsiasi conoscente non avrebbe potuto dire a un altro? Naturalmente non avrei potuto incontrarlo. Egli avrebbe detto così anche se fossi partita per la Nuova Zelanda, ma questo non avrebbe implicato affatto un'intenzione di vedermi. E poi, quanto alla domanda che era seguita, chiunque poteva farla. E come ho risposto io? Semplicemente con una parola comune e sciocca come avrei potuto dirla a signor Marray o a qualcun altro con cui fossi stata in comuni termini di cortesia. Ma allora, continuava la speranza, il tono e il modo con cui ti ha parlato. Oh, che sciocchezza! Le rispondevo io. Egli parla sempre con sentimento, e poi in quel momento c'erano i Green e la signorina Matilde Marray proprio davanti e altra gente che passava vicino ed egli era costretto a starmi molto vicino e a parlarmi a voce sommessa, se non voleva far sentire a tutti quel che diceva, cosa che non desiderava, benché non fosse nulla di particolare. Ma allora, diceva la speranza, e quel che più conta, quella stretta di mano energica ma tenera che sembrava dire fidati di me, e molti altri particolari troppo deliziosi, quasi troppo lusinghieri per essere ripetuti, perfino a se stessa. Follia sublime. Troppo assurda per essere contrastata, pure invenzioni della fantasia di cui dovrei vergognarmi, rispondevo io, se soltanto io riflettessi sul mio aspetto tutt'altro che attraente, la mia scontrosa riservatezza, la mia sciocca diffidenza che devono farmi apparire fredda, malinconica, goffa e forse anche di temperamento difficile. Se avessi giudicato correttamente queste cose fin dal principio non avrei mai nutrito tali pensieri ambiziosi. E ora che sono stata così stupida, me ne devo pentire ed emendare e non accoglierli più. Beh, non posso dire che obbedissi realmente a questa mia imposizione, ma ragionamenti come questi divennero sempre più efficaci via via che il tempo passava e il signor Weston non compariva e non sentivo niente di lui finché in ultimo rinunciai a sperare, perché ormai il mio cuore riconosceva che era tutto inutile. Ma pensavo ancora a lui, conservavo l'affettuoso ricordo di lui come di un tesoro, il ricordo di ogni parola, di ogni suo sguardo, di ogni suo gesto, e ripensavo alla sua superiorità e ai suoi lati singolari, ossia a tutto quello che avevo visto, udito e immaginato di lui. Agnes, l'aria marina e il cambiamento di ambiente non ti fanno affatto bene, mi pare. Non ti ho mai vista così sciupata. Stai troppo seduta e te la prendi troppo a cuore per la scuola. Devi imparare a prendere le cose più alla leggera, figlia mia, ed essere più attiva e allegra, e devi fare del movimento quando puoi. E lasciare a me i compiti più faticosi, così mi faranno esercitare la pazienza e forse mettere alla prova il mio carattere. Così mi diceva mia madre una mattina durante le vacanze di Pasqua che eravamo sedute a lavorare. Osservai di rimando che i miei incarichi non erano affatto pesanti, che stavo bene e che se c'era qualcosa che non andava sarebbe scomparsa non appena fossero finiti i mesi difficili della primavera. Quando fosse giunta l'estate, sarei stata in forze e vivace, come desiderava. Ma interiormente la sua osservazione fu per me un colpo. Riconoscevo che le mie forze diminuivano, l'appetito mi veniva meno e che stavo diventando intollerante e malinconica. Se davvero il signor Weston non doveva più pensare a me e io non dovevo mai più rivederlo, se mi fosse stato negato di contribuire alla sua felicità, negato per sempre, di godere le gioie dell'amore, se non avessi potuto amare ed essere amata, Allora la vita sarebbe stata per me un grave peso. E se la provvidenza mi avesse chiamata alla vita immortale, sarei stata contenta di trovare riposo. Ma significava morire e lasciare mia madre, figlia egoista e indegna. Potevo dimenticarla un solo momento. Non era affidata a me in gran parte la sua felicità ora e anche il benessere delle nostre giovani allieve. Dovevo indietreggiare di fronte al lavoro che Dio mi aveva affidato perché non era conforme ai miei gusti? Non conosceva la provvidenza meglio di tutti quel che dovevo fare e in qual luogo dovevo lavorare. E potevo desiderare di lasciare il mio servizio prima di aver finito il compito e credere di entrare nella pace divina senza averla meritata col lavoro? No, con l'aiuto della provvidenza dovevo risorgere e rimettermi di lena al compito prescrittomi. Se non c'era per me felicità in questo mondo, avrei cercato di promuovere il benessere di quelle che mi stavano intorno. E la mia ricompensa sarebbe arrivata nell'aldilà, così dicevo in cuor mio. E da quel momento permisi ai miei pensieri di tornare a Edoardo Weston o almeno di fermarsi su di lui di tanto in tanto come un dono per occasioni speciali. E fosse realmente l'avvicinarsi dell'estate o l'effetto di quelle buone risoluzioni o il passare del tempo o tutte queste cose insieme. Recuperai presto la tranquillità spirituale e cominciai a riacquistare la salute e il vigore fisico di pari passo. Lentamente, ma sicuramente. Al principio di giugno ricevetti una lettera di Lady Ashby, la già signorina Murray. Mi aveva scritto 2 o 3 volte dai diversi luoghi di sosta del suo viaggio di nozze. Era sempre piena di entusiasmo e si diceva molto felice. Ogni volta mi meravigliavo che non mi avesse dimenticata in mezzo ai tanti divertimenti e varietà di scena, ma poi ci fu una pausa perché passarono 7 mesi senza una lettera. Naturalmente non me ne disperai, benché spesso mi chiedessi come le andassero le cose, e quando arrivò questa missiva, assolutamente inaspettata, fui abbastanza contenta di riceverla. Era scritta da Ashby Park, dove era andata finalmente a stabilirsi dopo aver diviso il suo tempo fra il continente e Londra. Mi chiedeva molte scuse per avermi trascurata così a lungo, assicurandomi che non mi aveva dimenticata e che spesse volte aveva avuto intenzione di scrivermi, ma era stata sempre impedita da qualche cosa. Riconosceva che aveva condotto proprio una vita dissipata, che io potevo crederla molto ingrata e trascurata, ma tuttavia mi aveva pensata molto e soprattutto desiderava molto vedermi. Noi siamo qui già da diversi giorni, scriveva. Non c'è neppure un amico con noi e ci minaccia una vita ben triste. Lei sa che non ho mai sognato di vivere con mio marito come 2 tortore in un nido, neppure se fosse la più deliziosa creatura che abbia mai portato i pantaloni. Così abbia pietà di me e venga. Immagino che le sue ferie estive comincino in giugno, come quelle delle altre persone, e quindi non può prendere la scusa che perde del tempo. E deve venire e verrà, altrimenti morirò. Voglio che venga in visita come un'amica e che rimanga molto a lungo. Non c'è nessuno con me, come le ho detto prima, eccetto Sir Thomas e la vecchia Lady Ashby. Ma non occorre che se ne preoccupi perché la disturberanno ben poco con la loro compagnia e avrà una camera tutta per sé dove ritirarsi e una quantità di libri da leggere quando la mia compagnia non sarà abbastanza divertente. Non ricordo più se le piacciono i bambini. Se le piacciono potrà avere il piacere di vedere la mia, la più deliziosa bambina del mondo. Certamente tanto più deliziosa in quanto non ho il fastidio di allattarla perché ho deciso di non prendermi questa seccatura. Sfortunatamente è una bambina e Sir Thomas non mi perdonerà mai, ma comunque venga. Le prometto che lei le farà da governante non appena potrà parlare e la alleverà come si deve e ne farà una donna migliore di sua madre. E vedrà anche il mio barboncino, uno splendido tesoruccio portato da Parigi e 2 bei quadri italiani di gran valore. Ho dimenticato di chi. Certamente ella sarà in grado di scoprire la loro straordinaria bellezza e la spiegherà a me, che li ammiro solo per sentito dire. E molte curiosità eleganti che ho acquistato a Roma e altrove. E finalmente vedrà la mia nuova dimora, la splendida casa e la proprietà che ho desiderato tanto, ahimè, quanto la speranza di possedere sorpassa il piacere del possesso. Ecco, un bel sentimento. Le assicuro che sono diventata una vecchia grave matrona. La prego di venire, se non altro per osservare di persona questo cambiamento straordinario. Mi scriva a giro di posta e mi dica quando cominciano le sue vacanze e aggiunga che verrà il giorno dopo e che rimarrà fino al giorno prima che finiscano, avendo pietà della sua affezionatissima Rosalia Ashby. Mostrai a mia madre questa lettera ben strana e la consultai su quello che dovessi fare. Ella mi consigliò di andare, così andai abbastanza desiderosa di vedere Lady Ashby e la sua bambina, di giovarle, confortandola e consigliandola perché immaginavo che doveva essere infelice, altrimenti non si sarebbe rivolta a me in quella forma. Accettando l'invito, è facile capirlo, facevo per lei un grande sacrificio e violentavo i miei sentimenti in vari modi, invece di esserne lusingata, per l'onore specialissimo che mi faceva la moglie di un baronetto nell'invitarmi ad andare da lei in qualità di amica. Comunque decisi che la mia visita sarebbe stata solamente di pochi giorni e devo confessare che mi confortava un po' il pensiero che, poiché Ashby Park non era molto distante da Horton Lodge, probabilmente avrei visto il signor Weston, o almeno avrei saputo qualcosa di lui. Capitolo 22. La visita. Ashby Park era certamente una residenza stupenda. La costruzione era grandiosa fuori, comoda ed elegante dentro. Il parco era vasto e meraviglioso, soprattutto per i suoi vecchi e begli alberi, i suoi branchi di cervi superbi, il suo grande specchio d'acqua e i boschi antichi che lo contornavano. Poiché non c'erano avvallamenti a dare varietà al paesaggio e solo pochissime di quelle ondulazioni che aggiungono tanta attrattiva ad un parco. Questo era il luogo che Rosalia Murray aveva tanto agognato di chiamare suo, di cui voleva diventare la padrona, qualunque fossero le condizioni a cui doveva sottoporsi, qualunque fosse il prezzo che doveva pagare e chiunque fosse colui con il quale dovesse spartire tale possesso. Ma non è questo il momento di criticarla. Ella mi ricevette molto affabilmente e benché fossi la figlia di un povero parroco, governante e maestra, con schietto piacere mi diede il benvenuto nella sua casa e ciò che mi sorprese alquanto, si prese qualche incomodo per rendermi piacevole la visita. Notai, è vero, che si aspettava che fossi molto colpita dalla magnificenza che la circondava e confesso che ero piuttosto seccata del suo sforzo evidente per rassicurarmi e impedire che fossi schiacciata da tanta grandezza e troppo spaventata all'idea di incontrare suo marito o la suocera. O troppo vergognosa della mia umile situazione, ma io non provavo affatto vergogna. Benché vestita semplicemente, mi ero preoccupata di non parere né ridicola né trascurata. E sarei stata abbastanza a mio agio se la mia condiscendente ospite non si fosse presa tanta pena di far sì che non lo fossi. E quanto alla magnificenza che mi circondava, non c'era nulla che mi colpisse o impressionasse più del cambiamento del suo aspetto. Fosse per la dissipazione della vita mondana o per qualche altro male, era bastato poco più di un anno per operare un cambiamento che avrebbe potuto fare solo un periodo di molti anni nel diminuire la sua rotondità, la freschezza della sua carnagione, la vivacità dei suoi movimenti e l'esuberanza del suo spirito. Desideravo sapere se era infelice, ma capivo che non stava a me chiedere. Potevo cercare di guadagnare la sua confidenza. Ma se ella preferiva tenermi celate le sue sofferenze matrimoniali, non l'avrei seccata con domande indiscrete. Così, dapprima mi limitai a delle domande generiche sulla sua salute, sul suo benessere, a qualche osservazione sulla bellezza del parco e sulla bambina, che sarebbe dovuta essere un maschietto, una pupattola minuta e delicata di 7 o 8 settimane, che sua madre non pareva considerare con alcun interesse o affetto, benché non meno di quel tanto mi potevo aspettare da lei. Subito dopo il mio arrivo mi affidò alla cameriera perché mi conducesse nella mia camera e sentisse se desiderassi qualche cosa. La camera era piccola e senza pretese, ma abbastanza comoda. Quando discesi, dopo essermi tolta gli abiti da viaggio e aver fatto una toiletta degna della mia ospite, mi condusse nella stanza che avrei occupato quando preferivo star da sola. O quando ella fosse occupata dalle visite o costretta a tener compagnia alla suocera o obbligata a rinunciare per altre ragioni, come lei disse, al piacere della mia compagnia. Era un piccolo tinello, quieto e grazioso, e non fui spiacente che fossi provvista di quel porto di salvezza. E un'altra volta disse, le mostrerò la biblioteca. Non ho mai esaminato i suoi scaffali, ma certo sono pieni di buoni libri e lei può andarci e frugarci quanto le pare. Ora devi andare a prendere una tazza di tè. Sarà presto ora di pranzo, ma ho pensato che siccome lei era abituata a pranzare all'una, preferirà forse prendere una tazza di tè ora e pranzare quando noi faremo colazione. E poi sappia che può prendere il tè in questa stanza e che si risparmierà di pranzare con Lady Ashby e con Sir Thomas, che sarebbero piuttosto scortesi, non scortesi, piuttosto capisce che cosa voglio dire? Credo che forse non si troverebbero molto bene, specialmente se per caso abbiamo altre signore e signori a pranzo. Oh, certamente, dissi. Preferirei che mi servissero il pranzo quando dice lei e se non ha obiezioni, preferirei consumare tutti i miei pasti in questa stanza. Oh, ma perché? Perché immagino che questo farà più piacere a Lady Ashby e a Sir Thomas. Oh, niente affatto. A ogni modo, farebbe più piacere a me. Fece qualche opposizione, ma subito cedette e potei notare che la proposta le aveva tolto un gran peso. Ora venga in salotto, disse. Ecco il campanello che suona perché andiamo a vestirci, ma non ne ho ancora voglia. Non c'è scopo di vestirsi quando non c'è nessuno a vederci e poi ho bisogno di parlare un po'. Il salotto era certamente una stanza imponente e ammobiliata con molto lusso, ma vidi la sua giovane padrona adocchiarmi quando entrammo. Per osservare se ero impressionata dallo spettacolo e di conseguenza decisi di conservare un'aria di assoluta indifferenza, come se non vedessi nulla di speciale. Ma questo durò solo un momento. Immediatamente la coscienza mi chiese perché dovevo disingannarla per salvaguardare il mio orgoglio. No, era meglio che sacrificassi il mio orgoglio per darle una piccola soddisfazione innocente. Così guardai intorno, francamente. E le dissi che era una stanza superba, ammobiliata con molto gusto. Rispose poche parole, ma vidi che ne aveva avuto piacere. Mi mostrò il suo grasso barboncino francese che stava arrotolato su un cuscino di seta e i due dipinti italiani, che però non mi diede il tempo di esaminare, dicendomi di guardarli un altro giorno. Mi volle fare ammirare un piccolo orologio ornato di gemme acquistato a Ginevra e poi mi fece fare il giro della stanza per mostrarmi diversi oggetti artistici che aveva portato dall'Italia. Un bell'orologio da tavolo, alcuni busti, delle graziose figurine e dei vasi tutti scolpiti in marmo bianco con molta maestria. Parlò di questi oggetti con molta animazione e rimase ad ascoltare le mie parole di ammirazione con un sorriso soddisfatto. Questo però svanì subito e fu seguito da un sospiro mesto, come se considerasse l'impossibilità che queste sciocchezze dessero la felicità al cuore umano. E la loro profonda incapacità di colmare le sue esigenze inappagate. Poi, gettatasi su un sofà, mi fece segno di accomodarmi in una grande poltrona di fronte, non dinanzi al fuoco, ma dinanzi alla finestra spalancata, perché bisogna ricordare che eravamo in estate, in una serata calda e dolce della seconda metà di giugno. Rimasi per un momento in silenzio a godere l'aria calma e pura. E la vista deliziosa del parco di fronte a me, ricco di verdure e di fogliame, e che, irradiato dalla luce dorata del sole, metteva in risalto le lunghe ombre del giorno declinante. Ma dovevo approfittare di questa pausa. Avevo delle domande da fare e, come succede nella lettera di una signora in cui la sostanza è nel poscritto, la più importante sarebbe venuta per ultima. Così cominciai a chiedere del signore e della signora Murray e della signorina Matilde e dei signorini. Mi fu detto che il babbo aveva la gotta, che lo rendeva irascibile, che non voleva rinunciare ai suoi vini scelti, ai suoi pranzi, alle sue cene laute e che aveva bisticciato col medico perché quest'ultimo aveva osato dirgli che nessuna medicina avrebbe potuto giovargli finché avesse vissuto così sregolatamente. Che la mamma e gli altri stavano bene. Matilde era ancora ribelle e irrequieta, ma aveva una governante elegante, aveva migliorato molto le sue maniere e presto sarebbe entrata in società. E Giovanni e Carlo, ora a casa per le vacanze, erano senz'altro dei ragazzi, belli, sfacciati, indisciplinati e litigiosi. E come stanno gli altri? Dissi, i Green, per esempio. Ah, il signor Green è affranto, sa? Rispose con un sorriso languido. Ancora non si riprende dalla delusione. E non si riavrà mai più, suppongo. È condannato a rimanere un vecchio scapolo e le sorelle fanno di tutto per sposarsi. E i Meltham? Oh, tirano avanti come al solito, suppongo. Ma so ben poco di tutti loro, fuorché di Harry, disse arrossendo leggermente e sorridendo di nuovo. Lo vidi moltissime volte quando eravamo a Londra, però perché non appena seppe che eravamo là, arrivò col pretesto di far visita a suo fratello e mi seguiva come un'ombra dovunque andavo e mi si parava di fronte a ogni svolta. Ma non c'è bisogno che si scandalizzi così, signorina Grey. Io ero molto riservata, l'assicuro, ma sa, non potevo impedire che mi ammirassero. Povero ragazzo, non era l'unico adoratore, ma certo il più in vista e credo anche il più ardente. E quell'odioso, cioè Sir Thomas, mio marito, si offese del suo contegno o delle mie spese eccessive o di qualche altra cosa, non so esattamente che cosa, e mi spedì in fretta e furia in campagna di punto in bianco, dove sono condannata a fare l'eremita per tutta la vita. E si morse le labbra e aggrottò la fronte guardando con un'espressione vendicativa il vasto dominio che una volta aveva tanto agognato di chiamar suo. E il signor Hatfield, dissi, che cosa è avvenuto di lui? Si rasserenò di nuovo e rispose gaiamente: Oh, ha messo gli occhi su una vecchia zitella e l'ha sposata, non tanto tempo fa, consolandosi coi quattrini della gioventù sfiorita e sperando di trovare nel denaro la gioia che gli era stata negata in amore. Allora è tutto qui, fuorché il signor Weston, e che cosa ne è di lui? Oh, non ne so assolutamente niente, è partito da Horton. Da quanto tempo? E dove è andato? Non ne so nulla. Ella rispose sbadigliando, eccetto che è andato via un mese fa. Non ho mai chiesto dove. Avrei voluto chiedere se era per vivere di un beneficio o semplicemente per andare in un'altra parrocchia, ma pensai che era meglio non domandarlo. E la gente ha fatto un gran chiasso sulla sua partenza, continuò, con gran seccatura del signor Hatfield, perché a Hatfield non era simpatico, perché aveva troppa influenza sulla gente del popolo e perché non era abbastanza arrendevole e soggetto alla sua volontà e per non so quale altro peccato imperdonabile. Ma ora devo proprio andare a vestirmi. Ormai suonerà il secondo campanello e se andrò a pranzo in questa tenuta, Lady Ashby non finirà più di brontolare. È ben curioso di non essere padrona in casa propria. Suoni il campanello e manderò a cercare la mia cameriera per dirle di portare il tè. Pensi soltanto che quella donna insopportabile. Chi? La sua cameriera? No, mia suocera! Oh, che errore imperdonabile ho commesso! Invece di lasciarla andare ad abitare altrove, come ella mi offrì di fare quando mi sposai, fui tanto sciocca di pregarla di vivere ancora qui e occuparsi dell'andamento domestico per me. Prima perché speravo che avrebbe trascorso la maggior parte dell'anno in città. E poi, perché essendo giovane e senza esperienza, ero atterrita dall'idea di avere una compagnia di domestici da dirigere e i pranzi da ordinare, dei visitatori da intrattenere e tutto il resto. E così pensavo che mi avrebbe aiutata con la sua esperienza, non immaginando mai che si sarebbe dimostrata un'imperatrice, una tiranna, una spia e tutto quello che c'è di più detestabile. Vorrei vederla morta. Ella si voltò per dare degli ordini alla cameriera, che era rimasta ferma in piedi vicino alla porta per un mezzo minuto e aveva sentito l'ultima parte delle sue invettive e che naturalmente stava facendo mentalmente i suoi commenti, nonostante l'aspetto rigido e impassibile che credeva opportuno assumere in salotto. Quando più tardi le feci notare che quella aveva dovuto sentire, rispose: Ah, che importa, non mi preoccupo mai dei domestici, sono dei semplici automi. Che interessa a loro quel che i loro padroni dicono o fanno? Non osano ripeterlo. E quanto a quel che ne pensano, se si permettono di pensare a qualcosa, chi se ne occupa? Sarebbe ben buffo se ci si dovesse legar la lingua dinanzi ai nostri domestici. Così dicendo, fuggì via di corsa a fare la sua toeletta affrettata, lasciandomi da sola a rintracciare la strada fino al mio tinello, dove a tempo debito mi fu servita una tazza di tè. E poi rimasi a riflettere sulla condizione passata e presente di Lady Ashby e sulle scarse notizie ottenute sul conto del signor Weston e la scarsa probabilità di rivederlo o di sentire qualche cosa di lui nella mia vita calma e incolore. Questa, d'ora in avanti, pareva che non mi offrisse nessuna alternativa fra giorni effettivamente piovosi e giorni nuvolosi e tristi. Alla fine questi pensieri cominciarono a opprimermi e a farmi desiderare di sapere dove si trovasse la biblioteca di cui la mia ospite mi aveva parlato. O mi chiedevo se invece dovevo rimanere senza far niente fino all'ora di andare a letto. Siccome non ero abbastanza ricca da possedere un orologio, non potevo dire quanto tempo era passato se non osservando il lento allungarsi delle ombre dalla finestra. Questa mia riservava una vista laterale che includeva un angolo del parco, un gruppo di alberi i cui rami alti ospitavano una colonia di cornacchie rumorose e un alto muro fornito di un cancello di legno massiccio senza dubbio comunicante, con il cortile delle stalle, poiché una larga strada carrozzabile partiva da esso verso il parco. L'ombra di questo muro prese ben presto possesso di tutto lo spazio, fin dove potevo vederlo, costringendo la luce dorata del sole a ritirarsi palmo per palmo e alla fine a cercare rifugio sulla cima degli alberi. Dopo poco, anche queste furono sommerse nell'ombra, l'ombra delle colline discoste e della terra stessa, e per simpatia verso le cornacchie operose mi rincrebbe di vedere i loro nidi, un momento prima indorati dai raggi solari, gettati nella tristezza e nell'oscurità del mondo di sotto e del mio mondo dentro la stanza. Per un momento gli uccelli che volavano più in alto poterono ancora ricevere sulle loro ali della luce che diede al loro piumaggio oscuro un fulgore rosso oro, poi anche questo scomparve. Il crepuscolo avanzò furtivamente, le cornacchie si acquietarono e io cominciai a sentirmi stanca e a desiderare di tornare a casa l'indomani. Alla fine si fece notte e stavo pensando di farmi portare una candela e andare a letto quando riapparve la mia ospite con molte scuse per avermi trascurata così a lungo e gettando tutta la colpa su quella vecchia scocciatrice che chiamava suocera. Se non rimanevo con lei in salotto mentre Sir Thomas beveva il suo vino, disse, non mi avrebbe mai perdonato. E anche lasciare la stanza nel momento che arrivava lui, come ho fatto una volta o due, è un'offesa imperdonabile verso il suo caro figliuolo. Lei non si è mai mostrata, capisce, così poco rispettosa verso suo marito. E secondo lei le donne dei nostri giorni non se ne preoccupano, ma le cose ai suoi tempi erano diverse. Come se ci fosse qualche utilità a rimanere nella stanza quando lui non fa che brontolare e imprecare, se è di cattivo umore, e raccontare storielle disgustose se è di buon umore, e gettarsi a dormire sul divano se è troppo stupido sia per l'uno che per l'altra cosa. E quest'ultimo caso ora è il più frequente quando non ha da fare altro che ubriacarsi. Ma non può tentare di occupare il suo spirito con qualcosa di migliore, spingerlo a rinunciare a codeste abitudini? Sono sicura che lei possiede i mezzi per persuaderlo, Lady Ashby, e le qualità per divertire un uomo che molte signore sarebbero contente di possedere. E allora lei crede che dovrei dedicarmi al suo divertimento? No, questa non è l'idea che ho di una moglie. Spetta al marito di piacere alla moglie, non alla moglie di piacere al marito. E se lui non è soddisfatto di lei com'è e felice di possederla, egli non se la merita, ecco tutto. E quanto al persuaderlo, le assicuro che proprio non mi prenderò questa briga. Ne ho già abbastanza di sopportarlo com'è, senza tentare di operare un emendamento. Ma sono spiacente di averla lasciata così sola, a lungo, signorina Grey. Come è passato il tempo? Oh, a osservare le cornacchie. Oh, Dio mio, come si è dovuta annoiare. Proprio devo mostrarle la biblioteca e deve suonare per tutto quello che desidera, come se fosse in un albergo e non farsi mancare nulla. Ho delle ragioni egoistiche per farla felice, perché ho bisogno che rimanga con me e non metta in atto la sua orribile minaccia di scappare fra un giorno o due. Bene, mi permetta che non la tenga lontana dal salotto più a lungo questa sera, perché per il momento sono stanca e desidero andare a letto.